Vivere al cospetto di Dio e al cospetto degli uomini. Siamo qui riuniti, consummati in unum, Giovanni 17:23, in unità di preghiera, di intenzioni, pronti a cominciare questo tempo di conversazione con il Signore, con il rinnovato desiderio di essere efficaci strumenti nelle sue mani. Davanti a Gesù sacramentato, come mi piace fare un atto di fede esplicita nella presenza reale del Signore nell'Eucaristia. Alimentate nei vostri cuori il desiderio di trasmettere, con la vostra orazione, un impulso pieno di fortezza che giunga in ogni luogo della terra, fino all'ultimo angolino del pianeta, dove ci sia una persona che spende generosamente la sua vita al servizio di Dio e delle anime. Perché, grazie all'ineffabile realtà della comunione dei santi, siamo solidali, cooperatori, dice San Giovanni, terza Giovanni 8, nel compito di diffondere la verità e la pace del Signore. È ragionevole riflettere sul nostro modo di imitare il Maestro, soffermarci, meditare, per imparare direttamente dalla vita del Signore, alcune virtù che devono risplendere nel nostro comportamento, se davvero aspiriamo a estendere il regno di Cristo. La prudenza, virtù necessaria. Nel passo del Vangelo riportato dalla Messa di oggi, leggiamo: «Tunc abeuntes farisei concilium inierunt ut caperent eum in sermone» Matteo 22:15. I farisei ritiratesi tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Non dimenticate che il sistema degli ipocriti è una tattica molto usata anche ai nostri giorni. Penso che l'erba cattiva dei farisei non si estinguerà mai nel mondo, è sempre stata fertilissima. Forse il Signore ne tollera la crescita per rendere prudenti noi, suoi figli, perché la virtù della prudenza è imprescindibile per chiunque si trova a dover dare criterio, a dare sicurezza, a dover correggere, illuminare, incoraggiare. È proprio così, da apostolo, prendendo spunto dalle circostanze della vita quotidiana, deve comportarsi il cristiano con quanti lo circondano. Innalzo in questo momento il mio cuore a Dio e gli chiedo, con la mediazione della Vergine Santissima, che è nella Chiesa ma sopra la Chiesa, tra Cristo e la Chiesa per proteggere, per regnare, per essere madre degli uomini, come lo è di Gesù Cristo, Signore nostro. Gli chiedo di concedere la prudenza a tutti e soprattutto a noi che, inseriti nel sistema circolatorio della società, vogliamo lavorare per Dio. Dobbiamo davvero imparare a essere prudenti. L'episodio evangelico così continua. Mandarono dunque a lui i propri discepoli, i discepoli dei farisei, con gli erodiani a dirgli: «Maestro», Matteo 22:16. Osservate con quale capziosità lo chiamano maestro. Si fingono suoi ammiratori ed amici, gli applicano il trattamento riservato all'autorità da cui ci si aspetta di ricevere un insegnamento. Magister, scimus quia verax es. Matteo 22:16. Sappiamo che sei veritiero. Che astuzia infame. Si può avere maggior doppiezza? Camminate per il mondo con attenzione. Non siate guardinghi, diffidenti. Tuttavia dovete sentire sulle vostre spalle, ricordando la immagine del buon pastore che compare nelle catacombe, il peso di quella pecora che non è una sola anima, ma tutta la Chiesa, tutta l'umanità. Nell'accettare con disinteresse questa responsabilità, sarete audaci e prudenti nel difendere e proclamare i diritti di Dio. E allora, per l'integrità del vostro comportamento, molti vi considereranno e vi chiameranno maestri, vostro malgrado. Infatti, non cerchiamo la gloria terrena. Ma non vi dovete meravigliare se fra i molti che vi si avvicinano si infiltra qualcuno che vuole soltanto adulare. Incidete nelle vostre anime ciò che vi ho detto molto spesso. Né le calunnie, né le mormorazioni, né i rispetti umani, né il chissà che cosa diranno, e tantomeno le lodi ipocrite, devono giammai impedirci di compiere il nostro dovere. Ricordate la parabola del buon samaritano. Quell'uomo è stato abbandonato lungo la strada, ferito dai briganti che lo hanno derubato anche dell'ultimo centesimo. Passano di lì un sacerdote dell'antica legge e poco dopo un levita. Entrambi proseguono il cammino senza preoccuparsi. Invece, un samaritano che era in viaggio passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Luca 10:33-34. Badate bene che questo non è un esempio che il Signore propone soltanto a poche anime prescelte, perché subito aggiunge, rispondendo a chi aveva posto il quesito, cioè a ciascuno di noi, va e anche tu fa lo stesso. Luca 10:37. Pertanto, quando nella nostra vita o in quella degli altri notiamo qualcosa che non va, qualcosa che richiede l'aiuto spirituale e umano che noi figli di Dio possiamo dare, sarà una chiara manifestazione di prudenza applicare il rimedio opportuno, a fondo, con carità e con fortezza, con sincerità. Non c'è posto per le inibizioni. È sbagliato pensare che i ritardi e le omissioni risolvano i problemi. La prudenza vuole che quando la situazione lo richiede si adoperi la medicina totalmente senza palliativi, dopo aver messo allo scoperto la piaga. Non appena notate più piccoli sintomi del male, sia che dobbiate curare, sia che dobbiate essere curati, siate sinceri, veritieri. In questi casi si deve permettere a chi è in grado di sanare in nome di Dio di spremere da lontano e poi più da vicino, sempre più vicino, per far uscire tutto il pus, in modo che il focolaio di infezione resti ben pulito. Innanzitutto dobbiamo fare così con noi stessi e con coloro che per motivi di giustizia o di carità siamo obbligati ad aiutare. Lo raccomando soprattutto ai genitori e a coloro che si dedicano a compiti di formazione e di insegnamento. I rispetti umani. Nessun ragionamento ipocrita vi deve trattenere. Applicate la medicina pura e semplice, ma agite con mano materna, con l'infinita delicatezza delle nostre mamme quando curavano le ferite piccole o grandi prodotte dai nostri giochi o dai ruzzoloni infantili. Quando è necessario aspettare qualche ora, si aspetta, ma in nessun caso più del tempo strettamente indispensabile, perché ogni altro comportamento denoterebbe comodità, vigliaccheria, cose ben diverse dalla prudenza. Tutti voi, e specialmente quelli fra voi che hanno compiti di formazione, dovete respingere il timore di disinfettare la ferita. Può darsi che qualcuno venga astutamente a sussurrare all'orecchio di chi deve curare e non si decide o non vuole affrontare il suo compito. Maestro, sappiamo che sei veritiero. Matteo 22:16. Non tollerate quell'ironico elogio. Chi non si sforza di compiere con diligenza il suo dovere non è maestro perché non insegna il cammino autentico e non è veritiero perché con la sua falsa prudenza prende per esagerazioni o disprezza le regole chiare del retto agire mille volte sperimentate dall'età, dalla scienza di governo, dalla conoscenza della debolezza umana e dall'amore a ogni singola pecora che inducono a parlare, a intervenire, a interessarsi. I falsi maestri sono dominati dalla paura di accertare la verità. Si inquietano alla sola idea, all'obbligo, di far ricorso all'antidoto in qualche occasione doloroso. In un comportamento simile, siatene certi, non vi è né prudenza, né pietà, né saggezza. Questo atteggiamento denota pusillanimità, mancanza di senso di responsabilità, insensatezza, stoltezza. Sono le stesse persone che poi, prese dal panico per il disastro, pretendono di arginare il male quando ormai è troppo tardi. Non ricordano che la virtù della prudenza impone di accogliere e di trasmettere a tempo debito il consiglio meditato della maturità, dell'esperienza assodata, dello sguardo puro, della lingua senza reticenze. Continuiamo nel racconto di San Matteo. Sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Questo cinismo non finisce mai di sorprendermi. Sono mossi dall'intenzione di ritorcere le parole di Gesù, di coglierlo in contraddizione e invece di esporre pianamente ciò che a loro sembra un nodo insolubile, cercano di confondere il Maestro con lodi che dovrebbero essere pronunciate soltanto da labbra fedeli, da cuori retti. Indugio volutamente su queste sfumature perché impariamo a non essere sospettosi, ma prudenti sì, a non accettare la frode della finzione, quantunque rivestita di frasi o di gesti che di per sé corrispondono alla realtà, come nel passo che stiamo contemplando. Tu non fai distinzioni, dicono a Gesù. Tu sei venuto per tutti gli uomini. Niente ti trattiene dal proclamare la verità e dall'insegnare il bene. Matteo 22,16. Ripeto, prudenti sì, diffidenti no. Date a tutti la fiducia più totale, con tutti siate nobili. Quanto a me, do più valore alla parola di un cristiano, di una persona leale, mi fido completamente di chiunque, che non alla firma autentica di 100 notai unanimi, anche se qualche volta per aver seguito questo criterio forse sono stato ingannato. Preferisco correre il rischio che persone poco serie abusino della mia fiducia, piuttosto che defraudare qualcuno del credito che merita come persona e come figlio di Dio. Vi posso assicurare che i risultati di questo modo di fare non sono mai stati deludenti. Agire con rettitudine. Se ad ogni passo non ricaviamo dal Vangelo conseguenze pratiche per la nostra vita, significa che non lo meditiamo a sufficienza. Molti di voi che mi ascoltate siete giovani, altri siete già entrati nell'età matura. Tutti volete, vogliamo, altrimenti non saremmo qui, produrre buoni frutti. Ci sforziamo di mettere nel nostro comportamento lo spirito di sacrificio, il desiderio di trafficare il talento che il Signore ci ha affidato, perché sentiamo lo zelo divino per le anime. Ma non sarebbe la prima volta che, malgrado la buona volontà, qualcuno vada a cadere nel tranello teso dalla combriccola. Ex Phariseis et Herodianis, Matteo 12,13, composta magari da chi in un modo o nell'altro, per il fatto di essere cristiano, dovrebbe difendere i diritti di Dio e invece, alleato e confuso con gli interessi delle forze del male, assedia insidiosamente altri fratelli di fede, altri servi del medesimo Redentore. Siate prudenti e agite sempre con semplicità, virtù così tipica dei buoni figli di Dio. Mostratevi naturali nel modo di parlare e di fare. Andate al fondo dei problemi, non rimanete in superficie. Guardate che bisogna mettere anticipatamente in conto il dispiacere altrui e il proprio, se vogliamo davvero compiere santamente e da galantuomini i nostri doveri di cristiani. Non vi nascondo che quando devo correggere o prendere una decisione che darà dispiacere, soffro prima, durante e dopo, e non sono un sentimentale. Mi consola il pensiero che soltanto le bestie non piangono. Gli uomini, i figli di Dio, piangono. Capisco che in certi momenti anche voi dovrete passare un brutto quarto d'ora se vi impegnate a compiere fedelmente il vostro dovere. Non dimenticate che è molto più comodo, ma significherebbe andare fuori strada, evitare a ogni costo una sofferenza con la scusa di non dare un dispiacere al prossimo. Spesso questa inibizione racchiude un vergognoso rifuggire dal dolore proprio, perché normalmente non è piacevole dare un avvertimento serio. Figli miei, ricordatevi che l'inferno è pieno di bocche chiuse. So che mi stanno ascoltando alcuni medici. Scusate se mi permetto di prendere un altro esempio dalla medicina. Può darsi che non sia del tutto esatto, ma il paragone ascetico regge. Per curare una ferita, innanzitutto la si pulisce bene, anche tutto intorno, fino a una buona distanza. Il chirurgo lo sa benissimo che fa male, ma se evita questa operazione, dopo farà ancora più male. Inoltre, applica subito il disinfettante. Brucia, pizzica come si dice, mortifica, ma non si può fare a meno di usarlo per evitare che la piaga si infetti. Se per la salute corporale è evidente il dovere di prendere queste misure, anche se si tratta di leggere escoriazioni, nelle cose grandi della salute dell'anima, nei punti nevralgici della vita di una persona, figuriamoci se non ci sarà da lavare, da incidere, da pulire, da disinfettare e da soffrire. La prudenza ci impone questi interventi e di non rifuggire dal dovere, perché passar sopra denoterebbe una grave mancanza di criterio e anche un grave attentato alla giustizia e alla fortezza. Siate persuasi che il cristiano, se davvero vuole agire con rettitudine al cospetto di Dio e al cospetto degli uomini, ha bisogno di tutte le virtù, almeno in potenza. Qualcuno mi domanderà: padre, e le mie debolezze? Ecco la risposta. Quando un medico è malato, smette forse di curare anche se è afflitto da una malattia cronica? La sua malattia gli impedirà forse di prescrivere ad altri malati la medicina opportuna? Certamente no. Per curare gli basta possedere la scienza adeguata e metterla in pratica, con lo stesso interesse con cui combatte la propria infermità. Il collirio della propria fragilità. Anche voi, come me, vi scoprirete quotidianamente pieni di errori se vi esaminate con coraggio alla presenza di Dio. Quando con l'aiuto di Dio si lotta per estirparli, gli errori non hanno più un'importanza decisiva e si finisce per superarli, anche se sembra di non riuscire mai a sradicarli del tutto. Inoltre, al di sopra delle tue debolezze, tu contribuirai a porre rimedio alle grandi mancanze degli altri, purché ti impegni a corrispondere alla grazia di Dio. Riconoscendoti debole come loro, capace di tutti gli errori e di tutti gli orrori, sarai più comprensivo, più delicato e nel contempo più esigente, affinché tutti noi ci decidiamo ad amare Dio con il cuore intero. Noi cristiani, figli di Dio, dobbiamo assistere gli altri mettendo in pratica onestamente ciò che gli ipocriti malignamente sussurravano al Maestro. Non guardi in faccia ad alcuno. Matteo 22,16. Ciò significa che dobbiamo respingere decisamente ogni preferenza di persone. Ci interessano tutte le anime. Anche se, logicamente, dobbiamo cominciare a occuparci di coloro che, per qualunque motivo, anche per motivi apparentemente umani, Dio ha messo al nostro fianco. Et viam Dei in veritate doces. Matteo 22,16. Insegnare, insegnare, insegnare, indicare i cammini di Dio secondo verità. Non devi aver paura che gli altri vedano i tuoi difetti personali, i tuoi e i miei. Io ci tengo a renderli pubblici, raccontando la mia lotta ascetica personale, il mio desiderio di rettificare in questo o quel punto della mia battaglia per essere leale verso il Signore. Lo sforzo per sradicare e vincere le nostre miserie sarà già un modo di indicare agli altri i sentieri divini. Innanzitutto, e nonostante i nostri errori evidenti, con la testimonianza della nostra vita e poi con la dottrina, come Gesù nostro Signore che cepit facere et docere. Atti 1.1. Cominciò con le opere e in seguito si dedicò alla predicazione. Dopo avervi confermato che il sacerdote che vi sta parlando vi vuole molto bene e che il Padre Celeste ve ne vuole tanto di più perché è infinitamente buono, infinitamente Padre, dopo avervi detto che non ho niente da rimproverarvi, vi dico anche che considero mio dovere di aiutarvi ad amare Gesù Cristo e la Chiesa, suo gregge, per cui in questo credo che non mi superate. Mi emulate, ma non mi superate. Quando nella predicazione o nelle conversazioni personali segnalo qualche errore, non è per far soffrire. Sono mosso esclusivamente dal desiderio che tutti amiamo di più il Signore. E nell'insistere sulla necessità di mettere in pratica le virtù, non perdo di vista che questa necessità è urgente anche per me. Una volta ho sentito un superficiale commentare che l'esperienza delle cadute serve per cadere di nuovo, nello stesso errore, 100 volte. Io vi dico invece che una persona prudente trae profitto dai suoi rovesci per fare esperienza, per imparare ad agire bene, per rinnovare la decisione di essere più santo. Dall'esperienza dei vostri fallimenti e dei vostri successi nel servizio di Dio, dovete sempre trarre, con aumento nell'amore, il desiderio più fermo di continuare a svolgere i vostri doveri e i vostri diritti di cittadini cristiani a qualunque costo, senza vigliaccherie, senza rifuggire né dall'onore né dalla responsabilità, senza spaventarci per le reazioni che ci si alzano intorno, magari per opera di falsi fratelli, se nobilmente e con lealtà ci sforziamo di cercare la gloria di Dio e il bene del prossimo. Dunque, dobbiamo essere prudenti. Perché? Per essere giusti, per vivere la carità, per servire efficacemente Dio e tutte le anime. Molto giustamente la prudenza è stata chiamata genitrix virtutum, San Tommaso d'Aquino, madre delle virtù e anche auriga virtutum, San Bernardo, Sermones in Cantica Cantorum, guidatrice di tutte le abitudini buone. A ciascuno il suo. Leggete con attenzione la pagina evangelica per trarre frutto di queste stupende lezioni sulle virtù che devono illuminare il nostro modo di comportarci. Terminato il preambolo ipocrita e adulatore, i farisei e gli erodiani espongono il loro problema. Dicci dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Matteo 22, 17. Notate la loro astuzia, scrive San Giovanni Crisostomo. Non gli dicono infatti, di a noi ciò che è buono, ciò che conviene ed è giusto, ma di dunque a noi che te ne pare. Tanto è preciso il loro scopo di tradirlo e di renderlo odioso al potere politico. San Giovanni Crisostomo in Matteo Omelia 71. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Matteo 22, 18, 21. Come potete vedere, il dilemma è antico e la risposta del Maestro è chiara e inequivocabile. Non vi è, non può esserci, contrapposizione tra il servizio a Dio e il servizio agli uomini, fra l'esercizio dei nostri diritti e doveri civili e quelli religiosi, tra l'impegno per costruire e migliorare la città terrena e la convinzione che camminiamo in questo mondo diretti alla patria celeste. Anche su questo punto si manifesta l'esigenza dell'unità di vita, che, non mi stancherò mai di ripeterlo, è una condizione essenziale per tutti coloro che intendono santificarsi nelle circostanze ordinarie del loro lavoro, delle loro relazioni familiari e sociali. Gesù non ammette la divisione. Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Matteo 6,24. La scelta esclusiva di Dio, che il cristiano compie quando risponde pienamente alla sua chiamata, lo induce a rivolgere tutto al Signore, e nel contempo a dare al prossimo tutto ciò che secondo giustizia gli compete. Non è lecito farsi scudo di ragioni apparentemente devote per defraudare il prossimo di ciò che gli è dovuto. Se uno dicesse «Io amo Dio» e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Giovanni, prima Giovanni 4,20. Ma cade nello stesso inganno anche chi lesina al Signore l'amore e l'ossequio, l'adorazione, che gli sono dovuti in quanto creatore e padre nostro. E altrettanto avviene per chi rifiuta di obbedire ai suoi comandamenti con il falso pretesto di qualche incompatibilità con il servizio agli uomini, perché San Giovanni avverte espressamente che da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Prima Giovanni 5, 2, 3. Forse vi capiterà di sentire che qualcuno, in nome della funzionalità e perfino della carità, inventa e diffonde strane teorie per ridurre i segni di rispetto e di omaggio a Dio. A quei tali, tutto ciò che concorre all'onore del Signore sembra eccessivo. Non fateci caso, continuate per la vostra strada. Le loro elucubrazioni favoriscono soltanto polemiche che non pervengono ad altra conclusione che a scandalizzare le anime e a impedire il compimento del precetto di Gesù Cristo di dare a ciascuno il suo, di praticare con delicata fortezza la santa virtù, la giustizia. Doveri di giustizia verso Dio e verso gli uomini. Incidiamolo bene nella nostra anima perché lo si noti nel nostro comportamento. In primo luogo la giustizia verso Dio. Questa è la pietra di paragone della vera fame e sete di giustizia, Matteo 5,6, che si distingue dal vociare degli invidiosi, dei malcontenti, degli egoisti e degli avari. Il rifiutare al nostro Creatore e Redentore, il riconoscimento dei beni innumerevoli e ineffabili che ci concede, è infatti l'ingiustizia più ingrata e tremenda. Voi, se davvero vi sforzate di essere giusti, considererete spesso la vostra dipendenza da Dio. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? 1 Corinzi 4:7. Per riempirvi di gratitudine e di desideri di corrispondenza verso un Padre che ci ama fino alla follia. In questo modo si ravviverà in voi il buono spirito di pietà filiale che vi indurrà a trattare il Signore con tenerezza di cuore. Se gli ipocriti insinuano nel vostro ambiente il dubbio sul diritto del Signore a chiedervi tanto, non lasciatevi ingannare. Per tutta risposta vi metterete alla presenza di Dio docilmente, senza condizioni, come l'argilla nelle mani del vasaio. Geremia 18:6. E gli dichiarerete umilmente: Deus meus et omnia, tu sei il mio Dio e il mio tutto. E se qualche volta aggiunge il colpo inatteso, l'immeritata afflizione a causa degli uomini, canterete con nuova gioia: sia fatta, si compia, sia lodata ed eternamente esaltata la giustissima e amabilissima volontà di Dio su tutte le cose. Amen. Amen. La parabola del servo debitore di 10.000 talenti, Matteo 18:24, riflette bene la nostra situazione nei confronti di Dio. Neppure noi abbiamo di che pagare l'immenso debito che abbiamo contratto per le tante manifestazioni della bontà divina e che abbiamo accresciuto con i nostri peccati personali. Per quanto coraggiosamente possiamo lottare, non riusciremo a restituire con equità il molto che il Signore ci ha perdonato. Ma la misericordia divina supplisce abbondantemente all'impotenza della giustizia umana. Lui sì può considerarsi soddisfatto e rimetterci il debito, semplicemente perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Salmo 105:1. La parabola, come certo ricordate, ha anche una seconda parte che fa da contrappunto alla precedente. Il servo al quale era appena stata condonata una somma enorme non ha pietà di un compagno che gli doveva solo 100 denari. Qui viene a galla la sua meschinità di cuore. Strettamente parlando, nessuno gli può negare il diritto di esigere ciò che è suo. Eppure sentiamo in noi che qualcosa si ribella e ci dice che l'intolleranza di quel servo si allontana dalla vera giustizia. Non è giusto che chi un momento prima ha ricevuto un misericordioso trattamento di favore e di comprensione non reagisca con un minimo di pazienza nei confronti del suo debitore. Guardate che la giustizia non si esprime esclusivamente nel rispetto esatto dei diritti e dei doveri. Non è un problema aritmetico che si risolve con somme e sottrazioni. La virtù cristiana è più ambiziosa, ci spinge a mostrarci riconoscenti, affabili, generosi, a comportarci da amici leali e onesti, sia nei periodi favorevoli che nelle avversità, a rispettare le leggi e le legittime autorità, a rettificare con gioia quando ci accorgiamo di aver sbagliato nel modo di affrontare una questione. Soprattutto, se veramente siamo giusti, faremo fronte ai nostri impegni professionali, familiari, sociali, senza smancerie e senza sfoggio, lavorando sodo ed esercitando i nostri diritti che sono anche doveri. Non credo alla giustizia dei fannulloni, perché con il loro dolce far niente, come dicono nella mia cara Italia, contravvengono, e talvolta gravemente, al primo e fondamentale principio di equità, quello del lavoro. Non dobbiamo dimenticare che Dio ha creato l'uomo ut operaretur, Genesi 2:15, perché lavorasse, e il bene del prossimo, la nostra famiglia, la nostra patria, tutta l'umanità, dipende anche dalla validità del nostro lavoro. Figli miei, che misera idea di giustizia hanno coloro che la riducono a una mera distribuzione di beni materiali. Giustizia è amore alla libertà e alla verità. Fin da bambino, o come dice la scrittura, Matteo 11:15, fin da quando ho avuto orecchi per intendere, mi è giunto il clamore della questione sociale. Non è niente di strano, perché è un argomento antico, di sempre. Forse è sorta nel medesimo istante in cui gli uomini si sono dati un minimo di organizzazione, rendendo più visibili le differenze di età, di intelligenza, di capacità di lavoro, di interessi, di personalità. Non so se l'esistenza delle classi sociali sia inevitabile. In ogni caso, non è mio compito parlare di questi argomenti, e tantomeno qui, in questo oratorio, dove ci siamo riuniti per parlare di Dio. Per tutta la vita non vorrei avere altro argomento di conversazione. E per parlare con Dio. Pensate come volete in tutto ciò che la provvidenza ha lasciato alla libera e legittima discussione degli uomini, ma la mia condizione di sacerdote di Cristo mi impone la necessità di risalire più a monte e di ricordarvi che in ogni caso non possiamo tralasciare di esercitare la giustizia, con eroismo se è necessario. Siamo obbligati a difendere la libertà personale di tutti, sapendo che è stato Cristo ad acquistarci questa libertà. Galati 4:31. Se non facciamo così, con che diritto potremo reclamare la nostra libertà? E dobbiamo anche diffondere la verità, perché veritas liberabit vos. Giovanni 8:32. La verità ci libera, mentre l'ignoranza rende schiavi. Dobbiamo sostenere il diritto di tutti gli uomini alla vita e a possedere il necessario per condurre un'esistenza dignitosa, il diritto al lavoro e al riposo, alla scelta del proprio stato, a formarsi una famiglia, a mettere al mondo dei figli nel matrimonio e a educarli, ad affrontare serenamente i periodi di malattia o di vecchiaia, ad accedere alla cultura, ad associarsi con altri cittadini per scopi leciti e, in primo luogo, a conoscere e ad amare Dio con piena libertà, perché la coscienza, se è retta, scoprirà le impronte del Creatore in tutte le cose. Proprio per questo, non entro in questioni politiche, affermo la dottrina della Chiesa, è urgente ripetere che il marxismo è incompatibile con la fede di Cristo. Che cosa ci può essere di più opposto alla fede di un sistema il cui fondamento consiste nell'eliminare dall'anima la presenza amorosa di Dio? Gridatelo ben forte, fate sentire chiaramente la vostra voce. Per praticare la giustizia non abbiamo affatto bisogno del marxismo. Anzi, questo gravissimo errore, con le sue soluzioni esclusivamente materialiste che ignorano il Dio della pace, fa sorgere ostacoli al raggiungimento della felicità e della concordia fra gli uomini. All'interno del cristianesimo troviamo la luce vera che dà sempre la risposta a tutti i problemi. Basta che vi impegnate sul serio ad essere cattolici. Non verbo neque lingue, sed opere et veritate. 1 Giovanni 3:18. Non a parole e con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Ditelo tutte le volte che si presenta l'occasione, e siate voi a provocarla se occorre, senza reticenze, senza paura. Giustizia e carità. Leggete la Sacra Scrittura, meditate a una le scene della vita del Signore, i suoi insegnamenti. Considerate soprattutto i consigli e gli ammonimenti con cui preparava quel pugno di uomini che sarebbero diventati i suoi apostoli, i suoi messaggeri, da un confine all'altro della terra. Qual è la regola principale che indica loro? Non è forse il comandamento nuovo della carità? È con l'amore che si sono aperti la strada in quel mondo pagano e corrotto. Siate persuasi che non potrete mai risolvere i grandi problemi dell'umanità unicamente con la giustizia. Quando si fa giustizia e basta, non c'è da meravigliarsi che la gente si senta ferita. La dignità dell'uomo, che è figlio di Dio, chiede molto di più. La carità deve accompagnare e penetrare tutto perché addolcisce, deifica. Dio è amore. 1 Giovanni 4:16. Dobbiamo essere sempre mossi dall'amore di Dio, che rende più facile voler bene al prossimo e purifica e innalza gli amori terreni. Il percorso dalla stretta giustizia all'abbondanza della carità è lungo e non sono molti a perseverare sino alla fine. Alcuni si accontentano di avvicinarsi alla soglia, prescindono dalla giustizia e si limitano a fare un po' di beneficenza, che chiamano carità, senza rendersi conto che ciò è soltanto una piccola parte di quello che sono obbligati a fare, e si mostrano soddisfatti di sé, come il fariseo che pensava di aver colmato la misura della legge perché digiunava 2 giorni alla settimana e pagava la decima di tutto il suo avere. Luca 18:12. La carità, che è come un generoso traboccare della giustizia, esige in primo luogo il compimento del dovere. Si comincia con ciò che è strettamente giusto, si continua con il criterio dell'equità, ma per amare ci vuole molta finezza, molta delicatezza, molto rispetto, molta affabilità. In una parola, occorre seguire il consiglio dell'Apostolo. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Galati 6,2. Allora sì, allora vivremo pienamente la carità, allora osserveremo il comandamento di Gesù. Secondo me, il comportamento delle madri è l'esempio più chiaro di questa unione pratica della giustizia con la carità. Amano con identico affetto tutti i loro figli e proprio questo amore le induce a trattarli in maniera diversa, con giustizia disuguale, perché ciascuno è diverso dagli altri. Ebbene, anche con il nostro prossimo la carità perfeziona e completa la giustizia, perché ci spinge a comportarci in modo disuguale con chi è disuguale, adattandoci alle circostanze concrete di ciascuno per comunicare la gioia a chi è triste, la scienza a chi non ha formazione, l'affetto a chi è solo. La giustizia prescrive di dare a ciascuno il suo, che non vuol dire dare a tutti la stessa cosa. L'egualitarismo utopico è fonte delle più grandi ingiustizie. Per comportarci così, come si comportano le buone madri, dobbiamo dimenticarci di noi stessi. Non dobbiamo aspirare ad altra dignità che quella di servire gli altri, come Gesù Cristo che annunciava. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Matteo 20,28. Per questo occorre la forza d'animo di sottomettere la propria volontà al modello divino, di lavorare per tutti, di lottare per la felicità eterna e per il benessere temporale di tutte le anime. Il cammino migliore per essere giusti è una vita di dedizione e di servizio. Non ne conosco altri. Forse qualcuno penserà che sono un ingenuo. Non importa. Anche se mi considerassero ingenuo perché credo ancora alla carità, vi assicuro che continuerò a crederci. E finché il Signore mi darà vita, continuerò a prodigarmi da sacerdote di Cristo perché regnino l'unità e la pace fra coloro che, essendo figli dello stesso Padre, sono fratelli, perché ci sia comprensione fra gli uomini, perché tutti condividano lo stesso ideale, quello della fede. Ricordiamo alla Madonna, la Vergine prudente e fedele, e a San Giuseppe suo sposo, modello perfetto di uomo giusto. Matteo 1,19. Essi, che vissero alla presenza di Gesù, il Figlio di Dio, le virtù che abbiamo contemplato ci otterranno la grazia di farle attecchire nella nostra anima, affinché impariamo a comportarci in ogni istante da buoni discepoli del Maestro, prudenti, giusti, pieni di carità.